la sfera che cammina per ogni umana sorte, ecco già mi avvicina all'ora della morte. Forse pria che l'ultima mia strofe sia finita, ma non ce l'hai carnefice la fine della vita.